poi scrancli. Io non volevo farlo. Non mi lasciate solo. Sogna, sogna per cambiare questa vita. Sogna, sogna, sogna. L'età non ha importanza. Cambiare questa vita. Adesso dico basta. Sogna, sogna, sogna. L'età non ha importanza. Cambiare questa vita. Adesso dico basta. Voglio una pistola per spararti quando passi. Voglio un'altra pillola di estasi. Voglio avere ancora 15 anni. Voglio violentare gli insegnanti della scuola. Strangolarti, poi baciarti. Voglio dare fuoco a primavera. A una politica sincera di un governo che ci piega. Voglio accoltellare il mio datore di lavoro. Finire in prigione coperto di oro. Datemi un uomo. Le donne non mi vogliono. Tanto sono gay, bimbo su un cavallo tondolo. Voglio uno psichiatra che mi lecchi i piedi. I piani della NASA. Fucilare tutti i preti. Voglio mangiare un barattolo di vetri. Sanguinare con la bocca su tutti i divieti. Malato per la moda. Sono un narcisista. In buon samaritano un italiano un fancazzista. Sogna, sogna, sogna. L'età non ha importanza. Cambiare questa vita. Adesso dico basta. Voglio infangare Oriana Fallaci. Formigoni, innamorati, vomito, spinaci. Voglio darvi la cura contro il cancro. Nascosta tra gli abusi di potere di un comando. Scoperchiare bare dove c'è la cocaina. Sei un cinquantenne che cerca una bambina. Per fare i tuoi giochetti ti nasconde la divisa. Scrivo questi testi intanto guardo Ila. Voglio vestirmi da poliziotto. Nel tuo supermercato aiuto i ladri, ti boicotto. Questa Italia è tutto un complotto. Gioco tutto all'Enalotto. Voglio una ragazza ritardata nel salotto. Che non si accorga che l'ho fatta a pezzi come un mostro. Voglio chiamare la mia amica Parvin. Per fare quel film porno, fare su un po' di contanti. Sogna, sogna, sogna. L'età non ha importanza. Cambiare questa vita. Adesso dico basta. Voglio l'anarchia come filosofia. Sono stanco delle radio, della loro ipocrisia. Voglio un programma che si intitola Accettiamoci. Non voglio il terzo mondo nelle mani di un reality. Voglio Beppe Grillo come presidente. Voglio un attentato che distrugga l'Occidente. Voglio rubarti la password di MySpace. Voglio il pesce grosso come Sanpei. Voglio che Ivano diventi famoso. Voglio che Secolo diventi famoso. Voglio che Rice diventi famoso. Voglio Miss Simpatia in casa di riposo. Adesso chiamami e minacciami di morte. Tanto le bugie hanno le gambe corte. Voglio Moana d'Ortiem, le sue nozze. Voglio guardarla in faccia mentre fotte. Sogna, sogna, sogna. L'età non ha importanza. Cambiare questa vita. Adesso dico basta. Sogna, sogna, sogna. L'età non ha importanza. Cambiare questa vita. Adesso dico basta. Spider Pork, Spider Pork, il soffitto tu mi sporc. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto.